vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo risollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati di Carlo Genta. Se non diciamo sarà bene che andiamo a nascondersi per tutta la vita. Stai tranquillo. Sarò tranquillo solo se seguirete le mie istruzioni. Che ognuno di voi deve prendere il suo avversario e deve marcarlo per tutta la partita, capito? E allora vediamo un po', tu che sei terzino, chi ti prendi? Io mi prendo l'ana. E tu? Io mi prendo la coscia. Io sono la classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima. Ho parlato con mister Allegri ieri. Io credo che Messi vada bloccato attraverso una difesa a uomo che può essere svolta da una persona o in certi momenti anche da due, e che potrebbe, per il dispendio di energie necessario, essere fatto da Flamini nel primo tempo e da Muntari nel secondo tempo o viceversa. Per quanto riguarda i suggerimenti del Presidente, quando parliamo lui esprime le sue idee, i suoi pensieri, che io li accetto ben volentieri, perché anche lui dopo 25 anni di Milan, 26 anni di Milan, è un uomo di calcio, credo che è il presidente che ha vinto più di tutti al mondo, e quindi li accetto ben volentieri. È normale che poi io vivo la squadra tutti i giorni, cercherò di mettere in campo e dare delle indicazioni ai ragazzi, quelle che sono secondo me migliori per affrontare questo Barcellona. Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Beh, il tema di oggi è questo, cari amici convocati all'800240024. Non so come la pensate voi, ma sono molto curioso di scoprirlo. Franco Piantaneda, autore di questo programma e di tutte queste meravigliose introduzioni, vi aspetto naturalmente per vivere insieme questa vigilia lunghissima di Milan-Barcellona. Roberto Scaltritti in regia, c'è Galliani che ha parlato da poco a pranzo ufficiale con Sandro Rosella, presidente del Barcellona, e dice Galliani, con una bugia clamorosa, firmerei per giocare contro i Blaugrana tutti gli anni. Affrontiamo la squadra più forte del mondo, che è favorita perché ha Messi, che è il miglior giocatore di tutti i tempi, a mio avviso superiore anche a Pelé e Maradona. Questa è la seconda bugia, perché Messi superiore a Maradona io lo devo ancora vedere, vincere, portare alla vittoria una nazionale come quella argentina. Lo vorrei vedere portare alla vittoria, come ha fatto Maradona, una squadra come il Napoli, ma sono tutte ipotesi, che non, almeno quella di un'altra squadra che non vedremo mai verificarsi. Dice sempre Galliani, ha un centrocampo stellare, però non sempre i favoriti vincono. Noi abbiamo grandi giocatori, dobbiamo affrontare la partita con gioia, e questa ci sta. Dobbiamo affrontare la partita con gioia, perché comunque è bello, io credo, per i giocatori, per qualunque allenatore, Allegri compreso, giocare contro una squadra come il Barcellona. L'importante sarà evitare figuracce, evitare grandinate, evitare di uscire dalla Champions League già stasera. Io saluto e ringrazio moltissimo un grande del Milan del passato, che il Barcellona ha battuto

del disegno tattico che sicuramente certo. Allegri avrà messo, vorrà mettere in atto. Intanto c'è molta fiducia nel Milan che arriva anche dai risultati di quest'ultimo, di quest'ultimo periodo. Ovviamente non ci sarà di Balotelli. Io non ti chiedo di parlarmi di Balotelli, Filippo, ma di altri giovani del, del Milan, visto che è la, la tua materia. El Shaarawy, De Sciglio, Niang, il futuro del Milan sono loro. Beh, Shaarawy chiaramente ha fatto un'esperienza importante prima a Padova, giocando moltissime partite in Serie B, poi è venuto qui, Allegri lo ha gestito con grande sapienza. Adesso il fatto che Ibrahimovic sia andato via, comunque sia stato ceduto, gli ha permesso di avere più continuità, ma lui ha, ha un anno in più alle spalle di Serie A, quindi è più maturo, secondo me anche una gestione della palla diversa, migliorata, e quindi e poi cosa non da poco, fa gol. Niang, anche lui è arrivato qui, all'inizio sembrava un po' in difficoltà, soprattutto anche per motivi di comportamento, ma intendo nel campo, nel senso poco propenso a seguire quelle che erano le indicazioni anche dell'allenatore in fase di non possesso. Invece adesso vediamo Niang che si è messo anche lui a disposizione, e quindi anche per questo Allegri l'ha usato con molta continuità. Poi c'è De Sciglio che insomma credo debba essere un po' l'esempio di tutti i ragazzi che entrano nel nostro settore giovanile, perché ha dimostrato serietà, abnegazione, impegno, insomma ancora adesso è un ragazzo che se consideriamo un ragazzo arrivato, voglio dire, comunque è chiaro che ha un ruolo fisso, se non nell'11 dei titolari, comunque nella ruota della prima squadra del Milan, e questo è grazie indubbiamente alle sue qualità, ma anche al lavoro che è stato fatto nel settore giovanile nel corso degli anni agli allenatori, da parte degli allenatori. Quindi complimenti a Mattia, e devo dire che è un esempio che credo che i giovani debbano seguire con grande attenzione. Certo, Filippo, per chiudere questa chiacchierata, domani quarti di finale a Viareggio con lo Spezia, non sarà Milan-Barcellona, ma è comunque, io credo, per il Milan, per te certamente una partita importante. Ah, per tutti quanti noi del settore giovanile è una partita importante, una partita come sempre difficile, loro hanno eliminato l'Inter, quindi avranno acquisito sicurezze, non hanno nulla da perdere, quindi ci affronteranno con quelle che sono le loro armi, un po' di qualità, ma soprattutto grande voglia di fare battaglia, di essere quello che Milan dovrebbe essere forse stasera con il Barcellona, insomma, quindi chiusi, attenti, ci attaccheranno quando sarà il momento di attaccarci, quindi noi dovremo farci trovare pronti. Non è facile, però insomma la squadra ha dimostrato di saper affrontare momenti difficili anche nello stesso Viareggio, perché ieri con gli argentini c'è stato davvero un momento in cui c'era una sorta di caccia all'uomo in campo, sono stati bravi a mantenere la calma, perché l'espulsione che c'è stata all'ultimo minuto non è assolutamente meritata, io lo vedo la partita e quindi niente. Insomma, anche da questo si impara, anche da questo si impara. Assolutamente, bisogna fare nel tesoro di queste esperienze. Grazie Filippo. Grazie a te, un abbraccio. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Filippo Galli, 800 24 00 24. Adesso tocca a voi, anche quelli che si ricorderanno magari che una volta fece abbastanza scalpore, insomma, Filippo Galli, che venne dedicato da Nils Liedholm, profeta della zona, alla marcatura di Platini a Torino. Vidi quella partita, Filippo Galli annullò Platini, il Milan annullò la Juventus, fu uno 0-0 di rara noia, anche merito di Filippo Galli, perché allora la Juventus era la squadra più forte, il Milan una squadra che con gli inglesi, con Farina, nell'era pre-Berlusconi cercava di ricostruirsi. 800 24 00 24. Mentre io leggo notizie di agenzia, una di queste un po' preoccupante forse per i tifosi del Genoa. Allora, 13:44, su disposizione della magistratura, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato al presidente del Genoa Enrico Preziosi oltre 4 milioni di euro per il mancato versamento dell'IVA da parte della società. Sequestrati beni anche all'amministratore delegato Alessandro Zarbano. La procura ha precisato che si tratta di sequestro nominale per equivalente in relazione al mancato versamento dell'IVA per circa 8 milioni di euro dell'esercizio 2011. Mica paglia. Take your time. Take your time, it's your time, cari ascoltatori. 800 24 00 24 il numero verde. Vedo anche messaggi su Twitter: Maradona è migliore di Messi perché ha vinto un mondiale. Se il metro è questo, la domanda, se il metro è questo, allora Zagorakis è stato migliore di Zico. Questa mi sembra una tweet sciocchezza. Allora, da più parti si dice che Carletto Ancelotti potrebbe alla fine approdare dove ha sempre sognato, e cioè al Real Madrid, perché non lo scrivono solo in Francia, in particolare Le Parisienne, ma è una notizia, che è una voce che gira da diverse parti. Ha una specie di accordo verbale con il Real Madrid. Da entrambe le parti si sono detti che la stagione prossima c'è voglia di lavorare insieme, e io scommetto con voi che Ancelotti al Real Madrid l'anno prossimo ci va. Comincio a parlare con gli ascoltatori anche delle partite di ieri sera, perché il Bayern Monaco, attenzione attenzione, è il mio personalissimo favorito per la vittoria finale di Champions League. Anche qui vi lancio la palla e la sfida: 800 24 00 24. L'Arsenal non è una gran cosa, e questo lo sapevamo, ma il Real Madrid mi fa impressione. E mi fa impressione pensare cosa possano fare quei giocatori così forti fisicamente e così forti anche tecnicamente in alcuni casi, perché Kroos e Müller, tanto per fare due nomi a caso, sono giocatori mostruosi, con lo stile di gioco di Guardiola. Paolo, provincia di Milano, e cominciamo da lui. Buongiorno. Buongiorno. Allora. Mi sente? La sento. Complimenti veramente per la trasmissione. Grazie Paolo, grazie. Secondo, io ho letto oggi sul Corriere, volevo parlare di Milan-Barcellona, ho letto sul Corriere la formazione del Milan. Anch'io voglio parlare di Milan-Barcellona. Sì, ho letto sul Corriere la formazione del Milan, e secondo me, spero che i suggerimenti del presidente non siano stati ascoltati, anche perché con i giocatori non ci sta il buon presidente del Milan, però mettere tre uomini davanti tronca un po' il gioco del Milan, a mio avviso. Nel senso, o Pazzini o Boateng devono sedersi in panchina all'inizio e devono giocare solo con due attaccanti e mettere uno in più a centrocampo, se no il Milan a centrocampo la palla non gliela fanno vedere mai. Sì, io sono abbastanza d'accordo Paolo, anche se voglio vedere da dove partirà Boateng, perché lei sa bene che insomma è un giocatore molto forte fisicamente e anche piuttosto eclettico, quindi non credo che vada a piazzarsi sulla linea della tre quarti, ma penso che avrà dei compiti maggiormente difensivi, no? O no? Ma non lo so, per quanto mi riguarda Boateng, dopo l'ultima esperienza calciofila con l'Avelina, potevano anche venderlo, per quanto mi riguarda, perché l'apporto di quest'anno di Boateng è veramente... Sì, l'apporto di quest'anno di Boateng è rivedibile, è quantomeno rivedibile, caro Paolo. È poca cosa. È pochissima cosa l'apporto di quest'anno di Boateng, non so in questo quanto c'entri l'Avelina, per cui ha tutta la mia stima, e tutta la mia però... invidia, lo confessiamo pubblicamente, perché tanto che male c'è. Però al di là di questi discorsi gossipari, e se guardiamo al campo, l'apporto di Boateng quest'anno non è stato certamente pari a quello dell'anno passato, ma neanche lontano parente. È stato un giocatore che si è visto a sprazzi, che è stato parecchio tempo ai box, che forse non riesce più a ritrovarsi compiutamente e completamente in questo Milan. Detto questo, io credo che a Boateng verrà chiesta una grande partita dal punto di vista difensivo, perché è evidente che fare il 3 contro 3 nel centrocampo, in quel centrocampo, quando da una parte hai Muntari, Ambrosini e il pur bravissimo Montolivo, e dall'altra parte Xavi, Busquets e Iniesta, beh, diventa una specie di massacro. Danilo, provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vabbè, posso fare una critica prima di... Può fare tutte le critiche che vuole. Volevo dire, già fino anche all'anno scorso il tempo effettivo della vostra trasmissione era abbastanza ridotto, tra stacchi per informazioni eccetera. Lei secondo me ha detto, era un'impronta moderna, stacchetti musicali e aria fritta, ci ha accorciato ancora di più il tempo, non si offende, vero? No, non mi offendo, non sono d'accordo, ma non mi offendo. A me piace così perché mi piace anche divertirmi. Mi piace, per esempio, Max da Bergamo che mi scrive: certo che Piantanita sa scegliere le canzoni, Mario Venuti da brivido. Insomma, mi piace mescolare questi effetti. Poi il tempo ne abbiamo comunque per parlare, quindi non mi offendo per niente, Danilo. Come crede, il caporale. Volevo dire, riguardo la partita di stasera, veramente Galliani ha ragione. Messo, io sono più vicino, ma no, il Milan è stato come vittima sacrificare. Io non credo che sia proprio così. Nonostante la forza del Barcellona, penso che il Milan possa regalarci una sorpresa stasera. Ma è quello che speriamo tutti, non solo Galliani. Io credo che stasera il Milan possa magari fare un pareggio, magari anche vincere di misura con il Barcellona. Un 1-0 sarebbe un risultato da sottoscrivere con la penna rossa, però sul doppio confronto credo che il Milan non abbia chance, e spero veramente di essere smentito, come è ovvio, però credo che sul doppio confronto non ci sia storia. Serve troppa energia per battere questo Barcellona che, ripeto, a mio parere, come dicevo prima con Filippo Galli, si può provare a battere solo in una maniera, cioè lasciandogli il pallone. Ci sono delle statistiche che lo dimostrano, lasciandogli il pallone e facendoselo sbattere contro dal punto di vista fisico, come fece Mourinho con l'Inter e come ha fatto Mourinho Nelle poche gare che ha vinto alla guida del Real Madrid, ad esempio la finale di Coppa del Rey dell'anno passato. Torniamo a parlarne dopo. 800 24 00 24, e siete sempre tutti convocati su ogni sport per dire ciò che vi pare. A dopo. Parla il faraone. Io sono l'astro del mattino e della sera. Ramses sarà come dico io. Il mio faraone! L'ha messa ancora il mio faraone! Tutti convocati. Serve di più la colla da mettere sotto le scarpe di Messi o da mettergli sulla maglietta, o serve di più per i milanisti, o servirà di più quell'affare che cui da il nome questo gruppo Prozac più noto antidepressivo. No, io vorrei qualche milanista, insomma, siete molto bravi, siete molto simpatici, ma io vorrei qualche milanista bello teso e bello carico, magari pronto ad andare allo stadio stasera e che magari ci creda pure. 800 24 00 24, io come tutti i giorni vi convoco. Ce n'è uno di milanista molto noto, non italiano, bello pronto e bello carico, ed è il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, che su Twitter scrive: rossoneri in action tonight versus Barcelona, cannot miss it, Milano, here I come. Quindi ci sarà anche Novak Djokovic, che è milanista peraltro, questa sera allo stadio per questa sfida con il Barça, che i bookmakers hanno già battezzato come impossibile per i rossoneri. Cari amici, Angelo da Milano scrive: ma che difesa, bisogna giocare attaccando tutti gli spazi, raddoppiare, triplicare le marcature, dobbiamo distruggerli. Angelo, take your time, Angelo, si gioca purtroppo, si gioca 11 contro 11, raddoppiare, triplicare le marcature, dobbiamo distruggerli, ce ne vorrebbero 15 contro 11. Se attacca tutti gli spazi e il Milan prova a giocare a pallone contro il Barcellona, prova a metterla sul piano strettamente calcistico con il Barcellona, ne finisce distrutto. Secondo me il Milan invece deve giocare una gara di grande sacrificio fisico e di grande attenzione tattica, uomo o non uomo su Messi, colla o non colla sulla maglietta del più forte giocatore del mondo. Roberto, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Io la convoco sempre, convoco lei e tutti quanti, all'ascolto ogni giorno. Io sono d'accordissimo con lei quando ho detto che il Bayer attualmente è favorito per la finale, per la Coppa. Sì, non ho detto una roba pazzesca. No, anzi, e le posso dire un'altra cosa, sa però una cosa che penso io. L'altra mina vagante, secondo me, potrebbe essere la Juve, ma se gioca al 90%, perché basta che la Juve giochi al 60-70, è una squadra mediocre. Bene. Ma se giocasse con la furia, ma il Bayer, sono d'accordo con lei. 100% deve giocare la Juventus in Champions se League. 60, per me, no, ma 60-70 non è mediocre. Sì, sì, la Juventus. Però se gioca al 70 non c'è niente da fare. Ecco. Mentre il Barcellona può tranquillamente giocare al 60-70 e porta a casa la partita. Ma perché ha più colpi, ha un modo di giocare non può essere paragonato con quello della Juventus, ma dal punto di vista tattico. Dal punto di vista filosofico, Barcellona, ce n'è presente che in due partite quest'anno nel Gironi il Celtic una l'ha vinta e una l'ha persa, mi sa, all'ultimo minuto. Cioè, nel voglio dire, sì, ma dico, il Milan non è spacciato, perché io dico 70 Barcellona e 30 Milan, non è così. Io dico, no, ma vittima sacrificale, perché le partite vanno giocate. Sì. Lo so anch'io che il Barcellona è più forte, ma mica detto che la più forte vinca, ecco. No, non è detto che la più forte vinca. Sul doppio confronto è molto più facile che la più forte vinca. Sì, certo, infatti, serve. 70-30. No, no, no, vabbè, ma la percentuale può anche stare. Possiamo discuterne sulla percentuale. Il Milan soprattutto arriva a questa sfida in un momento in cui sta bene anche emotivamente, perché è in piena rincorsa per il terzo posto, rincorsa praticamente ormai completata, complici i rovesci degli altri, dalla Lazio all'Inter, tutti quanti stanno dando una mano. Domenica c'è il derby che potrebbe essere la chiave di volta comunque di questa rincorsa rossonera al terzo posto. Il Milan sta bene, soprattutto è un Milan che in confronti come questo, Gagliani ha ragione su un punto, è bello giocarli in confronti come questo, non ha nulla da perdere, perché è chiaro che la squadra favorita è il Barcellona e su questo non si discute, poi possiamo fare le percentuali che vogliamo. Roberto da Parma, juventino, sa che è uscita ora un'agenzia, Del Piero ha rinnovato con il Sydney, dunque si trova molto bene laggiù. Si trova molto bene laggiù e come dargli torto. Domani, cari ragazzi della regia e oltre, lo chiamiamo e vediamo se ha un posto per portaborse. Io mi candido, ok? Sulle mani Roberto Scaltritti, Fabio Cantadori, Franco Piantanini è impegnato con i telefoni. Vabbè, 800 24 00 24, c'è Alex che risponde a Djokovic su Twitter. Get ready a tennis like score 06, 06 or something similar. Milan, zero chance. Sa se Djokovic ribatte. Salvatore, Como. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato, ben convocato. Senta, sì. Tifoso juventino, stasera le do il risultato, secondo me, Milan 3, Barcellona 1. E poi, tifoso juventino o fa il gufo? No, tifoso juventino, per comodità in questo caso è meglio che vinca il Milan e non il Barcellona, perché noi andando in finale bravo, non c'era arrivato. Io sto iniziando fesso a sognare. Io. E poi fesso dico, io, ha fatto i suoi conti, ecco perché. Poi le dico un'altra follia, ed è la finale. Sì, perché questa Juventus, è una follia. Sì. Juventus-Galatasaray. Ecco, registri queste parole perché piacerebbe, poi a maggio le sentiremo. Allora, Salvatore, provincia di Como, me le ripeta che noi le registriamo. Juventus Galatasaray, la finale di Coppa Campioni, Champions League che sia. L'ha detto lei, eh? Guardi che noi conserviamo le prove, eh? Perfetto, poi ci risentiamo. Intanto le faccio i miei complimenti alle centraliniste e a lei come terminale di attacco di questo ottimo team che è Radio 24. Grazie. Buona giornata. E ai complimenti alle centraliniste armate di moltissima pazienza e molto attive, perché le telefonate sono moltissime. 800 24 00 24. A proposito, mi unisco naturalmente anch'io. Insomma, Drogba pare abbia detto a Snyder: dai, proviamo a rivincerla sta coppa. Mi sembra che lo Schalke 04 sia un avversario abbordabile. Ai sogni non c'è mai limite, non c'è confine, come è giusto che sia, soprattutto se parliamo di pallone, però stasera 3-1 mi sembra tanta roba. Io però voglio dei milanisti. Dove vi siete cacciati? Dove vi siete? Avete paura? Non riuscite neanche a fare il numero di telefono per raccontarmi le vostre emozioni? Io sento juventini, interisti. Dove siete? Michele, provincia di Milano. Buongiorno, senta, io sono milanista, però finalmente. Però mi piacerebbe pensare che stasera il Milan ce la facesse, ma secondo me, io ho visto le due precedenti partite di Milan-Barcellona, e la prima cosa, andranno in campo già sconfitti dai timori reverenziali, perché nelle ultime due partite che ho visto era un Milan che aveva molta più personalità di questo Milan. Sì. E già allora si vedeva che avevano dei grossi timori reverenziali, perché hanno sbagliato una marea di passaggi. Stasera ancora una partita così, ma che sbaglieranno una marea di passaggi. Quando vedranno uno del Barcellona, ma il Milan non è una squadra che ha timori reverenziali, semplicemente è più debole rispetto al Barcellona. Io ricordo la partita dell'anno scorso, quando Pato fece uno dei gol più belli che ho mai visto su un campo di pallone, partendo da metà campo. L'ultima cosa bella che ricordo di Pato, anche perché francamente poi non ha più giocato da nessuna parte, ora non lo sto seguendo più di tanto in Brasile, ma mi sembra che anche lì aveva i suoi problemi. E poi ci fu quel gol di Thiago Silva alla fine, fu un risultato più o meno miracoloso, ma non si tratta di timori reverenziali, si tratta semplicemente del fatto che il Barcellona è troppa roba per questo Milan, ma basta leggere le formazioni per rendersene conto. E secondo me la questione della marcatura uomo su Messi è alla fine un dettaglio, una buttata, un qualcosa che fa poco testo, anche perché Messi il primo uomo, quindi il primo ostacolo, lo salta sempre secco, quindi non va a prendere la palla a metà campo, quindi è un giocatore non da tre quarti, è un giocatore non da ultimi 25 metri, è un giocatore totale, quindi può essere un'idea quella di cercare di non fargli arrivare la palla, ma anche qui la vedo abbastanza dura. Traffico, poi torniamo, 800 24 00 24. Vi faccio sentire anche poi, tra le altre cose, Alonso molto fiducioso, un presidente del CONI, neo presidente del CONI altrettanto fiducioso, ma soprattutto voglio sentire le vostre voci, soprattutto di milanisti, 800 24 00 24. Non che gli altri non siano convocati come sempre, non che chi vuole parlare di altri sport non sia convocato come sempre, perché questo accade. 800 24 00 24. Strade. Stasera le do il risultato, secondo me Milan 3 Barcellona 1. Tutti convocati. Strade in diretta. Sulla tangenziale di Napoli si formano code per un incidente in uscita a Corso Malta in direzione Capo Dichino. Sulla 12 Genova-Livorno invece il traffico è rallentato per un cantiere tra Recco e Rapallo in direzione Livorno. E questa notte proprio la 12 sarà chiusa tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno tra le 23 e le 2. È tutto per il momento, ci risentiamo tra un'ora. Tutti convocati. Allora, io vorrei che, ma non per contestazione o per litigare, o perché non è neanche la mia indole, non ne ho voglia, e poi mi piace molto più ridere e divertirmi che non litigare, però mi piacerebbe molto che chi ha scritto questo messaggio senza firmarsi, il gol di Pato al Barcellona, uno dei più belli mai visti, ma vai a casa coglione. Ma non tanto per vai a casa coglione, perché ci vado volentieri, e magari l'ascoltatore ha anche ragione, ma perché mi piacerebbe sapere quali altri gol in tempi recenti questo ascoltatore ha visto di così belli. No, magari non se lo ricorda nemmeno. Quando Pato partì da metà campo e andò a segnare al Barcellona al Camp Nou, secondo me fu un gol meraviglioso. così come Di Pato, ricordo, altro gol meraviglioso, una rete segnata a Roma tanti anni fa, quando piantò secco l'Imexes partendo dalla fascia sinistra e andò in porta, perché questa era la forza di un giocatore alla fine dalle potenzialità ampiamente inespresse per le ragioni che tutti conosciamo. Dunque, siamo tutti in ritiro spirituale, scrive un ascoltatore, il ritiro spirituale non vale dalle 14 alle 15 perché siete convocati qui nella sacrestia dello sport. Alessandro, Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Alessandro. Io sono milanista, ho chiamato subitissimo. Oh, bravissimo, non sei in ritiro spirituale. No, no, sono a Milano per lavoro e mi fermo per vedere la partita. Bravo. Ci credo, la palla è tonda, non siamo favoriti, quindi meglio. Mm. Io spero solo di vedere una bella partita, almeno quello. Beh, quella vedrai sicuramente la squadra più bella del mondo, che è il Barcellona. Io credo sarà anche per me sono due stasera le squadre più belle del mondo, no? Vabbè, una per il cuore, l'altra per la ragione, insomma. Facciamo così. No, ma è una partita che merita di essere vista. D'altra parte non a caso non si trova un biglietto da mesi, insomma. Ma guarda, è il mio regalo di compleanno, l'amico con cui vado ogni... Quando è il tuo compleanno? Insieme. Come quando ieri è? Era 39. Ah, e allora auguri, 39, tanti auguri Alessandro. E comunque non abbiamo mai visto perdere il Milan quando si era insieme, quindi chi lo sa. Questa non piacerà a molti milanisti. Perché dici che è la prima volta? Quante ne avete viste insieme? Sono 15 anni che non ci vediamo sempre perché non abitiamo vicino, ma quando stiamo insieme l'abbiamo sempre visto vincere. Ah, è questo, andiamo nella cabala più spinta, Andiamo nella cabala più spinta. Beh, buon divertimento Alessandro, soprattutto buon compleanno. Grazie, buona trasmissione. Ciao. Ciao. Roberto Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Milanista doc. Sì. E tanto per dirlo così, diciamo, non posso mentire, no? Lei magari è troppo giovane, non so quanti anni abbia. Ghezzi, Davide, Trebbi, Nonnetti, Maldini, Trapattoni, Mora, Sani, se la ricorda? L'ho vista sui libri, nelle immagini del repertorio. Benissimo, io ero piccolino e ascoltavo quella doppia finale, bastarda, sì, giocata contro il Santos. Vabbè. Poi un altro gol, visto, le vengo in aiuto, Berti dell'Inter, anche se dall'altra sponda. Insomma, me lo ricordo molto bene. Ecco, vabbè, ma comunque ci sono degli interlocutori che scrivo. Scusi Roberto, Berti in che senso? Il gol come Pato, io vado veloce so che alla... Roberto, Berti, lei intende quel gol a Monaco contro il Bayern. Grande gol. Grande gol. Il signore ha detto che non era grande gol, allora neanche quello, insomma, perché era uguale, quasi uguale. Ha ragione. Anche Prati contro il Celtic. Ha ragione. Anche Prati. Ha ragione. Contro il Celtic. Chi si ricorda il Milan? Comunque io sono milanista doc, dico che Barcellona è tanti anni che è una grande squadra. Milan ha fatto delle valutazioni, sono contento, siamo anche al terzo posto, secondo me non meritatamente per la qualità del gioco. A me non piace come giochiamo, è Allegri. E chi le piace? Scusi, ma le piace, preferisce, cioè, ma sto parlando dal punto di vista calcistico, lei dice non meritato per come il Milan gioca. No, perché io sono uno sportivo, io voglio vincere, cioè il 3-3 del Liverpool è una partita che fa parte dei grandi numeri e ci siamo fatti prendere in giro da tutto il mondo, ma quella doveva finire 10-3. Poi abbiamo vinto una finale 2-0 che faceva, secondo me, veramente ridere, che era bruttissima, giocata lì su quella tensione. Però Roberto, la finale si porta a casa punto e basta. Cioè bravissimo, d'accordo, però io sono un amante del calcio. No, ma anch'io, però questo le dico, quali squadre vede giocare bene in questo campionato? Io vedo... Nessuna, nemmeno gli Juventini, la Fiorentina sta giocando molto bene. La Fiorentina domenica ha fatto una partita meravigliosa, ne ha fatte altre meno brillanti. Il Napoli, secondo me, quando gioca ed è abbastanza un bel vedere. La Roma ha fatto alcune bizzarre partite, ma alcune partite interessanti, quindi insomma è chiaro che la qualità del gioco è merce abbastanza rara. Ho visto la Sampdoria giocare, pur sotto altri aspetti, alcune grandi partite, poi ci, insomma, grosso modo ci accontentiamo di questo. Però io dico Milan terzo immeritatamente rispetto al gioco espresso, questo no, anche perché la squadra che ha trovato grande continuità di risultato, e la continuità di risultato porta fiducia che il Milan ha da spendere questa sera sul campo con il Barça. Sentite ragazzi, Daniele da Padova, un attimo di pazienza perché sentiamo il nuovo presidente del CONI, Giovanni Malagò, al microfono il nostro inviato Dario Ricci, la notizia di ieri, ma la voce nuova. Io lo sapevo che potevo contare su questi numeri, probabilmente per la gente esterna è stata inaspettata. Quali sono stati però i punti del programma che possono aver fatto la differenza? Perché sicuramente è stata un'attività di lobby importante, però i punti forti del suo programma che secondo lei hanno fatto la differenza? Voglia di cambiare, di avere un'area diversa, regole di governance che onestamente sono sotto gli occhi di tutti abbastanza fuori moda. Siamo in momenti di crisi e è stato importante trasmettere un messaggio che è stato recepito, che non c'è più il one man show, ma qui abbiamo bisogno veramente di avere valore aggiunto da tutte le componenti che lavorano per il CONI. Si sente di dare un suggerimento ai protagonisti dell'altra elezione, quella di domenica e lunedì? No, ma è un suggerimento di mantenere le promesse che fanno. Sentiamo anche a stretto giro di posto un commento di Alessandra Sensini, che fa parte della squadra di Malagò. Ovviamente soddisfatta la signora del surf, del windsurf. Una bellissima giornata, poi soprattutto vedere Giovanni, insomma, così emozionato è stato veramente bello. Quali possono essere stati i punti che hanno del vostro programma che hanno ribaltato quello che era la previsione della vigilia? Ma io credo che Giovanni voglia cercare di dare una nuova marcia a questo CONI, di stare più sul territorio, di raffrontarsi di più con le federazioni, con tutti gli enti che fanno parte del Consiglio, e dare anche più trasparenza a tutto il sistema. Per cui credo che questo, cioè, ci sia fondamentalmente una voglia di cambiamento. Sicuramente di cercare di portare più cultura dello sport in tutta l'Italia, e quindi anche attraverso la scuola, attraverso le società dove poi crescono gli atleti. Questo è secondo me un punto che dobbiamo affrontare, importante. Questa era Alessandra Sensini. Allora io chiedo un favore a Luca da Pisa, che è un ascoltatore che mi manda un sms, che è questo: se passiamo il turno corro nudo con la sciarpa rossonera sulle Ramblas. Allora io prego Luca di mandarci, nel caso dovesse succedere, un breve filmato che posteremo sul nostro nuovo sito internet. A proposito, andatelo a vedere, radio24.it, tutto nuovo, meraviglioso secondo me. Lo posteremo lì, ovviamente prima che arrivi la polizia e la festa finisca. Luca, un motivo in più per tifare Milan. Daniele Padova. Sì, ciao. Io sono milanista, sì? Padova, e le impressioni per la partita di questa sera sono che purtroppo a causa di defezioni abbiamo un centrocampo un po' troppo lento. Beh, Ambrosini e Montolivo purtroppo come passo non potranno star dietro ai giocatori del Barcellona, soprattutto Ambrosini prevedo che verrà ammonito i primi 15 minuti, per cui... Vabbè, e anche in difesa McSash è lento purtroppo, ma è questo quanto. Questo, però questo per quanto riguarda pensiero generale per la mia squadra, penso che finalmente, per causa forza maggiore, però finalmente abbiamo una squadra giovane con una prospettiva davanti. Questo assolutamente sì, ne abbiamo parlato prima con chi sta forgiando i giovani del Milan, cioè Filippo Galli. Grazie Daniele, adesso ci fermiamo e domani ovviamente parliamo con il risultato sul tavolo. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, a domani. Cerca la velocità, il Milan, la progressione di Pato! Dopo 27 secondi, Pato porta in vantaggio il Milan, e se doveva essere una partita da sogno, questo è un inizio che fa sognare. Le vacanze di Pasqua si avvicinano. Vola al sole con la Business Class di Air France. In aeroporto e a bordo tutto è concepito per offrire benessere e serenità, con un servizio dedicato. Acquista entro il 27 febbraio, per viaggi dal 23 marzo al 1 aprile, Dubai da 1.494 euro, Havana da 1.695 euro. Rio e San Paolo da 1825 euro. Tasse e supplementi inclusi, servizi di vendita esclusi. Condizioni e altre destinazioni in promozione su www.airfrance.it o in agenzia viaggi. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Commercialisti, ben ritrovati. Vediamo insieme le previsioni per marzo 2013. Sul versante di coloro che usano Business Pass continuerà a splendere il sole. In server farm o sul proprio server, solo Business Pass garantisce i vantaggi competitivi del vero cloud. Riduzione dei costi, gestione collaborativa e disaster recovery. Altrove, attenzione a nuvole ingannevoli che porteranno forti piovaschi. Business Pass oggi è in tour sulla penisola. Scopri la tappa più vicina su www.passepartout.net. SAIE 3, l'unico salone dedicato ai serramenti e alle finiture di interni ed esterni per gli operatori professionali. SAIE 3, dove domande e offerta, innovazione e cultura si incontrano. Bologna Fiere, 28 febbraio 2 marzo. Scarica il tuo biglietto su saie3.com. Io sono Ginevra, moglie di Paolo, madre nutrice di due gemelli, arruolata nel corpo insegnanti per la pubblica istruzione, e mi batterò fino agli scrutini di giugno per la consecutio temporum e le domeniche gratis. Ogni giorno un milione di persone sale in auto e si sente fiero. Ha scelto Direct Line, l'assicurazione che ai nuovi clienti, con la garanzia infortuni del conducente, offre tutte le domeniche gratis. Fai un preventivo su directline.it e scopri i dettagli dell'offerta. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Buongiorno, sono il signor Coserplast. Periodo difficile, eh? Per questo offro una grande opportunità. Gli infissi Coserplast, il miglior prodotto italiano a costo zero. È tutto vero e dimostrabile. Fatti i conti. 55% di detrazione fiscale, sconto 15 dei rivenditori, risparmio sulle bollette. In pochi anni gli infissi Coserplast ti costano 0 euro. 800-959-543. Acquista infissi a costo zero. Io ci metto la faccia. Coserplast, affidabilità per la vita. Tutti consigliano di diversificare gli investimenti. Il fondo UBS Multi Asset Income lo fa davvero, investendo in asset cui forse non avete ancora pensato, con l'obiettivo di generare reddito e prendersi cura del vostro capitale. UBS Multi Asset Income, il pezzo mancante nel vostro portafoglio, con la gestione attiva di UBS Global Asset Management. Per informazioni ubs.com/mai. Comunicazione pubblicitaria. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Sono le 15. GR24, il sole 24 ore. Corte dei Conti ha avviata un'indagine sui contratti derivati stipulati dal Comune di Roma. Grecia, oggi sciopero generale, paralizzato il paese. Champions League, sale l'attesa per Milan-Barcellona. Buon pomeriggio da Dario Ceccarelli e dalla redazione. Abbiamo avviato un'indagine sui contratti derivati che riguardano il Comune di Roma e che vennero stipulati alcuni anni fa. Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, nel corso di una conferenza stampa a conclusione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Il Papa sta prendendo in considerazione la pubblicazione di un atto proprio per precisare alcuni punti sul conclave. Lo ha detto Padre Federico Lombardi aggiungendo: non so se il Papa riterrà necessario fare una precisazione.